fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Per raccontarsi, per raccontare, questo è il nostro motto. Resto Radio Convento, bentornati da Master Nick, la nostra web radio che sta iniziando a popolarsi, come è bello il giusto che sia. In ogni sabato sera le vedete già schierate tramite le nostre webcam. Non vi spaventate, non sono innanzitutto la copia in nero della banda Bassotti, perché potrebbe essere una possibilità. Non sono frequentatrici di locali strani, o almeno non sembra. Potrebbe essere una seconda possibilità. Non sono qui per promuovere il remake di Eyes Wide Shut, che potrebbe essere un'ulteriore possibilità. Nulla di tutto questo, perché sono qui per festeggiare la quasi unica bionda del gruppo, che quindi potete riconoscere facilmente, ma la riconoscete perché è l'unica che ha la mascherina gialla. Esatto. Che probabilmente è anche parente di chi era Rocky Roberts lì, che diceva bandiera gialla, lei mascherina gialla. Sì. Giusto? No? Non ci hai provato? Non ti piace? No, non scrive canzoni, niente. No, non scrive canzoni, però dai, andiamo a conoscerla, la protagonista di questa serata. Benvenuta. Grazie. Come ti chiami? Alice. Oh, Alice, allora, da dove vieni Alice? Dici un po'. Wonderland, ma per gli amici Mazzano. No, per gli amici Mazzano, che insomma conosciamo, ricorderete insomma, se vedete, girate il mondo, che ogni paese, tanti paesi hanno sottolineiamo che Mazzano è gemellato con Wonderland, questa bella, insomma il sindaco ci ha tenuto molto, ci ha messo tanto, però è riuscito a gemellarsi con Wonderland. Allora, dici un po' Alice, cosa ti porta nel nostro locale a festeggiare questa sera? L'addio al nubilato 2.0. Ecco, 2.0, questa è la definizione già che abbiamo sentito all'ingresso della tua serata. Direi che puoi raccontare anche a tutti i nostri ascoltatori come mai questo 2.0, cosa significa? Significa che per mia fortuna è il secondo addio al nubilato che tutte le mie amiche decidono di regalarmi. Scusa se mi intrometto, secondo me anche per loro fortuna un po', perché secondo me non è che si siano proprio annoiate. Esatto. Quindi diciamo il secondo tempo, dai. Il secondo tempo. Il primo tempo è stato girato all'estero. Ah, in Marocco. In Marocco. Quindi ci siamo godute 3 giorni in quel di Marrakesh. Mm-hmm. Mescolandoci un po' con la cultura araba. E bello. Come mai questa meta? C'era un motivo? Io volevo qualcosa di particolarmente alternativo. Ah, però. L'addio al nubilato si spera sia più o meno una volta nella vita. Certo. E anche qualcosa di alternativo. Vabbè, diciamo che la scelta è stata giusta. Giornata a Marrakesh all'insegna di relax, escursioni, ballare, cosa avete fatto? Per chi mi conosce, escursioni, oh, visitare escursione, cibo. Escursione e visitare soprattutto cibo. Soprattutto conoscenza della cultura. Oh, bene, quindi culturale, dai, un addio nubilato culturale. Bene, poi ti sei rifatta qui in termini qui di c'era tutta la divertimento parte e di, esatto, ludica, bene così. Ok, allora, a proposito delle tue amiche, anche se non so se possiamo svelare l'identità, visto che intanto perché avete scelto questo tema mascherina? A chi è venuta l'idea e come mai? Particolarmente affascinante. Ah, e lo è, infatti l'hanno colpito molto, ha colpito molto, sono rimasti molti, non so se per le mascherine o per la bellezza delle ragazze, in ogni caso tanti si sono fermati ad osservarle. Ok, allora dai Alice, dici un po' chi ti accompagna, se ci vuoi presentare anche le tue amiche. Allora, con me stasera, partendo dalla mia sinistra, Simona, che canta anche benissimo come Fausto Leali. È come Fausto Leali, quindi direi che ha una voce da usignolo proprio, no? È la classica voce da donna. Quella... Abbiamo poi Giulia, specializzata nei dei giornalisti. Ah sì, è proprio fan numero uno, ok. Segue poi Paola, che è mia sorella, specializzata in tutto ciò che si può cantare, lei canta. Ma no, cosa c'hai? Lo zecchino d'oro ti sei portata dietro, non sono amiche. Esatto, non sono amiche, è il coro dell'Antoniano praticamente. Diciamo che abbiamo un po' tutti gli artisti, perché poi segue Paola, che è una stilista. Ah, però. Quindi disegniamo che si può interessare. Ok, ok. Anche questo. Segue poi Letizia, utilissima farmacista. Vabbè, che è sempre comodo portarsi una farmacista in giro. Abbiamo poi Federica, nonché testimone della sposa. Ok, che per distinguersi è l'unica senza mascherina, o magari l'ha persa. Deve fare l'alternativa. Ah, ok, però okay, ci sta, ci sta. Un tecnico radiologo, coordinatore di tutto. Perfetto. Fondamentale. Perfetto. E abbiamo anche un avvocato, Erika. Perfetto. certo, capito? Alice, qualsiasi cosa, cioè sembra che abbia tipo il clan, no? Un piccolo clan ha selezionato per la banda della Magliana e niente. Madonna, davvero? Sembra che abbia selezionato accuratamente, scremando vari curriculum, le amiche. Bello, bello. Allora, non ci hai ancora detto, tra l'altro, chi sarà il tuo futuro, cioè no, come lo chiamiamo, coniglio bianco a questo punto, no? Coniglio bianco, beh, le piace, dai, dai, dai. Allora, chi è il futuro coniglio? Nicola. Nicola, come vi siete conosciuti? Si può dire, È una storia un po' strana, ci conosciamo da sempre, abitiamo nello stesso paese. Ok. E voci raccontano, mia mamma, che a 7 anni, durante il grass estivo, io dissi: da grande sposerò Nicola. Non ci credo. Ed eccomi qua. Davvero? Così. Ma non c'era mai stato nulla di tenero prima, invece? Prima dei 7 anni miei no. No, in generale, ecco, anche, cioè nel senso, non c'era mai stata una storiella adolescenziale, scolastica, diciamo, no? Diciamo che sono 12 anni ormai, quindi. Vabbè, quindi eravate ancora alle scuole veramente quando avete cominciato. Oh, ok, ho capito. Tra l'altro, anche la nostra Alice fa un lavoro, mi diceva fuori onda, interessante, no? Che sì, è sì. Anche un po' sottovalutato in Italia, o forse poco apprezzato, poco apprezzato. Ma lei resiste e rimane qui. Non è un cervello in fuga. Ho fatto il cervello in fuga. Madonna, niente, me la sono giocata patriottica. C'era Salvini che mi ha fatto un tweet così, bravo, bravo, dai, è così. E invece niente, però cancello. È rientrata. Oh, dici com'è andata? È andata bene, ho fatto. Beh, tanto cosa fai? Sono biologa, faccio ricerca. Ho fatto per un anno ricerca negli Stati Uniti. Ah, però. Dove? Vicino a New York. Ok. Poi ho deciso di rientrare perché diciamo che credo nell'Italia, nelle possibilità che ci sono qui. Diciamo che anche nelle possibilità. Mm-hmm. Perché la preparazione che ti danno qui in Antalya. Eh beh, certo. Tant'è che sono sempre gli italiani che partono e si muovono, e quasi mai il contrario. C'è un settore specifico di ricerca di cui ti occupi? Attualmente medicina rigenerativa. Medicina rigenerativa, che sono già due parole con più di 14 parole una vicino, cioè 14 lettere una vicino all'altra, quindi già mi ho avuto un attimo uno shock anafilattico, però ci sono. No, medicina rigenerativa, e è un ambito che ti è sempre piaciuto, che hai sempre voluto studiare, o che hai conosciuto, diciamo così, strada facendo? Ho conosciuto strada facendo. Okay. La prima parte del mio percorso lavorativo, diciamo così, è stata tutta dedicata all'ambito oncologico. Ok. Poi ho virato sul rigenerativo. Se non puoi, okay, combatterlo direttamente, combattilo in un altro modo. Ok, chiaro. Ecco. Quello che non cambia, cioè, è che non sono parole sotto le 10 lettere. Quello è fondamentale. Infatti lei è fortissima, ad esempio, a Scarabeo, tutti quei giochi lì, è campionessa perché fa sempre 2000 milioni di punti, perché si sa che i medici e chiunque lavori nell'ambito della medicina, tra l'altro lui è un caso da studiare, te lo lascio se vuoi, anche lui arriva dall'America, è arrivato in una gabbia, poi l'hanno liberato qui e hanno detto vai, esplora il mondo. Ce ne sono un po' di casi da studiare, secondo me qui se te li trovi ti fai un bel anno, cioè proprio hai un anno di lavoro, solo stasera hai un anno di lavoro fatto, cioè cambiando ogni giorno. E no, cosa stavo dicendo? Sì, che insomma è risaputo che tutti i medici e chiunque opera in quel settore usa paroloni difficili, no? Che vi parlate tra di voi, non si capisce mai nulla quando vi parlate, è così davvero? Abbastanza. È forse difficile spiegare. Forse sono la signorina ti tiene testa. Forse è l'unica, perché l'avvocato anche loro c'hanno. Il legalese non è male. Allora, Alice, dai, vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare qualcuno approfittando del microfono che hai davanti? Io saluto la mia mamma, che al primo addio al nubilato c'era, questo abito nato spudoratamente. Beh, ma grazie, è venuta a Marrakech, cioè ci ha fatto il vacanziero. Doveva venire anche qui. Ah, sì? Sì, avrebbe potuto. Avrebbe potuto, siete molto legate, sembra, da come ne parli. Abbastanza. Poi giovane. Sprint, cavolo, perché se Marrakech. Viene fino a Marrakech è bella sprint. Bene, bene, allora salutiamo anche noi la tua mamma, che si chiama? Maria. Beh, ciao, tutti. Mamma. Vabbè, beh, giusto, giusto. Ho detto che ci siamo, salutiamo anche il papà e i cani. Giusto, che poi non sia mai che si sentano, come dire, sotto. Sì, esatto, esclusi. Tra l'altro mi piace la tua associazione, salutiamo la mamma, il papà e i cani. I cani, cioè, nel senso, più o meno. sono i più importanti dopo i genitori e la sorella, probabilmente. No, ok, bene, bene, bene. Saranno anche al matrimonio, non preoccupatevi. Ah sì, davvero, quindi matrimonio con cani. Matrimonio con cani, ok. Va bene, allora noi ringraziamo Alice, ringraziamo tutte le sue amiche ovviamente per avercela portata qui e ti auguriamo una buona serata, una buona fine festa e tanti auguri per il tuo futuro matrimonio. Grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Grazie, bye.